una cosa che appunto si sta notando sui boschi delle Dolomiti, sui boschi delle Alpi del nord-est, a partire dalla tempesta Vaia in poi, ma è un problema che c'è un po' in tutta Europa, in realtà, anche laddove una tempesta come Vaia non è passata, perché sostanzialmente questo tema, questo problema di questo insetto è legato a due grandi fattori. Il primo è il riscaldamento globale, quindi la crisi climatica, che sta mandando in crisi la pianta ospite, che è l'abete rosso, e quindi questa pianta più è in crisi più è diciamo suscettibile all'attacco dell'insetto. E l'altro grosso problema è che questo abete rosso negli scorsi decenni, direi secoli, è stato molto piantato massicciamente da noi esseri umani per le nostre esigenze produttive, di produzione del legname eccetera, quindi ci troviamo con grandi diversità di boschi monospecifici, anche laddove questo abete rosso non sarebbe proprio nel suo ottimo, diciamo, di climatico, in una situazione climatica che invece sta peggiorando, quindi queste piante sono in difficoltà e questo insetto, che non è un insetto che viene da chissà dove, ma è un insetto proprio dei nostri ecosistemi, le attacca in questo momento in modo abbastanza massiccio. L'aumento delle temperature ha ridotto anche la mortalità invernale di questo insetto, quindi insomma prolifica di più. Sì, esattamente, diciamo che il bostrico è legato a doppio filo con la crisi climatica, perché da un lato, appunto, come dicevo, gli abeti rossi dopo lunghi periodi di siccità, ma anche a seguito di eventi estremi che sono comunque collegati alla crisi climatica come la tempesta Vaia, sono in crisi, no? Quindi è in crisi la pianta, ma sta meglio anche l'insetto, perché le stagioni per la sua vita si allungano, perché fa caldo sempre prima e le stagioni si allungano appunto anche verso la tarda estate, ma questo insetto, come dicevi giustamente tu, supera l'inverno con più facilità rispetto a prima, perché appunto se non ci sono quelle grandi gelate per lunghe settimane come avveniva in passato sulle Alpi, questi insetti sopravvivono e quindi la primavera successiva sono pronti a riattaccare nuove piante. Ci sono delle immagini molto evocative anche degli effetti che producono. Ci vedono foreste verdi con magari un gruppo di alberi invece proprio rinsecchiti in mezzo, cose che insomma era difficile vedere in scenari alpini. Sì, diciamo che il bostrico, come dicevo prima, è un elemento del nostro ecosistema, si è evoluto insieme all'abete rosso, quindi non è un coleottero che è arrivato da un altro continente, no? Come purtroppo accade con tanti insetti in questa fase di globalizzazione. Quindi notare sulle Alpi, nei boschi di abete rosso, delle piccole macchie di abeti secchi era abbastanza normale. Quello che non è normale è vedere interi versanti, intere montagne completamente disseccate, come purtroppo negli scorsi anni si è visto ad esempio nella zona della Val di Fassa, della Val di Fiemme, ma anche in Veneto, in Friuli e in alcune zone della Lombardia. Per fortuna adesso l'infestazione sta un po' rientrando, nel senso che come tutti gli esseri viventi anche questo bosco qua ha dei cicli, no? Quindi in questo momento il ciclo è leggermente calante, però purtroppo la crisi climatica rimane, queste grandi distese di abete rosso ancora esistono e quindi nei prossimi mesi, nei prossimi anni può darsi che possa ritornare un evento come la tempesta Vaia o anche una lunga siccità che poi fa ripartire nuovamente un'infestazione. Ecco, questo ci dice comunque che, come dire, gli equilibri anche della natura sono molto delicati e alterarli, in questo caso con la crisi climatica, produce poi effetti anche impensati. Certo, assolutamente è così, la crisi climatica appunto non è, ed è un po' quello che diciamo in questo libro sotto carteccia, non si manifesta solo attraverso le alluvioni o le ondate di calore che stiamo vivendo anche in questi giorni, ma si manifesta anche con questi piccoli grandi cambiamenti che portano tutti gli esseri viventi, ma anche le piante, a subire dei cambiamenti che veramente sono di pochi gradi o poche, diciamo, frazioni di grado centigrado, ma che in realtà provocano appunto un cambiamento molto importante. Le specie stanno risalendo di quota proprio perché c'è questo cambiamento climatico. Ovviamente conta anche nel caso del bostrico questo aspetto di come le foreste, per esigenze che sono state anche ovviamente legittime negli scorsi anni, queste foreste sono state fortemente antropizzate, sono fatte di una sola specie, quindi quando hai intere montagne coperte da una sola specie, quando quella specie va in crisi ovviamente va in crisi tutta la foresta, tutto il sistema. Quindi da qui sì, c'è un po' una riflessione anche sulle possibili soluzioni, ovviamente. Infatti stavo per farti questa domanda, quindi insomma una possibile soluzione potrebbe essere quella di riproporre una biodiversità maggiore all'interno delle foreste. Sì, è come raccontiamo in Sottocorteccia, è un qualcosa che non dobbiamo iniziare a fare ora, perché per fortuna già dagli anni 60, già dagli anni del secondo dopoguerra si sta impostando una selvicoltura diversa nei boschi delle Alpi, è una selvicoltura naturalistica che punta sulla rinnovazione naturale del bosco, che punta alla presenza di boschi più misti, ma anche con strutture meno uniformi, no? Quindi boschi più strutturati, un mix di età diverse, quindi boschi più giovani, boschi meno giovani, boschi più maturi. Si sta già lavorando da decenni a questo cambiamento, però ovviamente mentre in agricoltura basta un anno per cambiare una coltivazione, nelle foreste servono decenni e decenni, quindi la tempesta Vai è arrivata in un momento di cambiamento in boschi che però erano ancora molto legati alla gestione passata. Bisogna puntare su boschi misti, boschi più strutturati nel futuro, e bisogna un po' accelerare questo processo di selvicoltura naturalistica che era già in atto da decenni. Ovviamente questo non significa abbandonare i boschi, ma significa gestirli con criteri diversi, appunto più legati alle dinamiche naturali.